Efti sono nel tunnel, Efti sono nel tunnel. Fumo in pubblico, attiro i clienti, cani da tartufo, con i suoi soldi, ristorante, riso giallo, osso buco, vengo dal buio, come le voci in testa che mi frullano, sono nel tunnel, sangue freddo sembra fatto di Subotex, sono nel Matrix, ma hai messo Jumpman, allaccio le ase, rosso come un Tampax. Se ti becca Monami in giro per Milano, entro da Louis Vuitton, esco da Ferragamo, te Napoleone. Son più da Monte Carlo, sono Simbelleone, è finito il letargo. Tu sei solo un coglione, invidioso del cazzo. Sono sopra i palazzi o sotto i portoni a vendere pezzi. Rapine coi caschi a Tenerife, mi diverto col jet ski. Parliamo coi gesti, fumo troppo, sono disconnesso. Fanculo te testa, ne ascolta Maranza, a te solo escort. Stop, mi muovo nella stanza rallentatore. Non è l'uso di droga, ma le voci che in testa che dicono cose. Stop, l'umore fa su giù come un ascensore. Scena italiana, sono tutti attori. Scena italiana, c'è qualche ricchione. Sono nel tunnel, mio fra sposta chili tranquilli in Uber. Sono nel tunnel, vedo le luci, parlo con gli shooter. Fornisco i pucci, facciamo castra, chiamami Freddy Krueger. Sono accavallato più di bunker, chiama l'112. Fumo in pubblico, attiro i clienti, cani da tartufo, con i suoi soldi. Ristorante, riso giallo, osso buco, vengo dal buio. Come le voci in testa che mi frullano, sono nel tunnel. Sangue freddo sembra fatto di Subotex, sono nel mondo.